Al Tour con Ivan Basso. Bentrovati da Paolo Piacenza e dalla redazione. Prima tappa del Tour de France, primo appuntamento di Radio 24 con Ivan Basso. La vittoria di questa prima tappa di 191,5 km, un esordio impegnativo, è andata al belga Philippe Gilbert, che conquista anche la maglia gialla. Tappa segnata da una caduta di gruppo al nono chilometro dall'arrivo, che costa al favorito Alberto Contador un distacco superiore al minuto in classifica generale. Ivan Basso, una prima tappa non tranquilla, com'è andata? Ma è stata una tappa molto difficile, come sempre accade al Tour. Le prime tappe c'è molto nervosismo, molto agonismo, quindi tante cadute. Ha vinto comunque il corridore più forte, con la tappa è stata poi condizionata nel finale con le due cadute ai 10 km e ai 2 km. Quali sono state le tue sensazioni in corsa? Ma le sensazioni nei primi giorni sono così normali, nel senso che l'emozione della partenza del Tour, chiaramente l'agonismo che c'è al Tour, è quello che fa la differenza nei primi giorni, quindi la condizione la vedremo poi nelle prime tappe. Domani che tappa vi aspetta? Domani abbiamo una cronosquadra, è un giorno molto importante per la classifica generale. Noi della Lucca Cannon abbiamo un'ottima squadra, quindi siamo molto fiduciosi di fare una buona prova. È tutto per oggi, un saluto da Paolo Piacenza e dalla redazione. Appuntamento con Ivan Basso domani dopo il GR delle 19.